Se nel 2007 aveva destato più di una perplessità il riconoscimento di uomo dell'anno a Vladimir Putin, per questo 2008 che fosse Barack Obama la figura emergente non sorprende. Time Magazine ha riconosciuto in lui quanto hanno riconosciuto i cittadini del mondo intero, dall'America all'Europa, dall'Asia all'Africa, Barack Obama ha fatto tornare credibile il sogno americano. In tempi difficili, attraversati come sono da guerre e crisi, il nuovo presidente degli Stati Uniti è stato agli occhi del mondo la prova vivente che quel sogno è ancora possibile. L'American Dream esiste ancora. È grazie a quel sogno che lui ha vinto le elezioni. Obama, un nero che fa Hussein di secondo nome, ha chiesto agli americani, in primo luogo, di tornare a credere nel sogno che li ha generati. E gli americani gli hanno detto sì, perché quel messaggio così retorico, we can, detto da lui era credibile. Lui stesso ne è la prova vivente. Di padre africano, rimasto orfano 2 anni, certamente non ricco, quel bambino dell'Hawaii è diventato a 47 anni il primo presidente nero degli Stati Uniti. Una storia così solo in America è possibile. Una storia così è più forte di qualsiasi crisi, perché è la prova che il sogno continua. Luciano Clerico, GR24, Il Sole 24 Ore, Washington.